Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un grande autore, musicista, musicologo, produttore italiano. È nato a Chiari nel 1946. Da bambino inizia a studiare violino e flauto traverso. Negli anni 60 comincia a militare in vari gruppi. Nel 1970 si avvicina al gruppo De I Quelli durante la registrazione de La Buona Novella di Fabrizio De André. Il gruppo cambia nome, diventano Krell e poi Premiata Forneria Marconi. Negli anni in cui militerà nella PFM, la nostra voce in scena si occuperà di scrivere tutti i testi dei brani e darà un notevole contributo alle sonorità del gruppo. Nel 1978 pubblica il suo primo album da solista, album che porta il suo nome. Il secondo album come solista è del 1981, Sogno di una notte d'estate, concepito come colonna sonora per uno spettacolo teatrale e poi film di Gabriele Salvatores. Sempre nell'81 inizia a collaborare con Fabrizio De André, col quale compone tutte le musiche del capolavoro Creusa de Ma e realizza Le nuvole nel 1990. Nel 1988 partecipa al Festival di Sanremo con il gruppo rock demenziale Figli di Bubba. Nel 1991 esce Passa la bellezza, nel 2003 Domani. Nel 2009 pubblica un romanzo dai tratti autobiografici, Foto di gruppo con chitarrista. Nel 2016 torna, dopo 13 anni, alla sua prima grande passione, scrivere e cantare canzoni con The Big Man, un brano post-funk interpretato in inglese, un brano che anticipa un album in uscita in autunno. La nostra voce in scena di oggi è Mauro Pagani. Ero a casa che scrivevo, ascoltavo. E da un lato c'era questa presenza che sentivo incombere, no? Dall'altra parte dell'oceano, ma neanche così tanto, no? E dall'altro lato mi è venuto Fly with a Big Man, ho detto, e piano piano il pezzo si è messo a posto, cioè è come se si fosse scritto da solo il pezzo. Io ho solo assistito alle passeggiate, quei film di cartoni animati dove metti una roba click, poi un altro si attacca, poi, poi la macchina gira e ha funzionato così. E si è scritto da solo in inglese? Si è scritto da solo in inglese, sì, perché insomma il soggetto era diciamo di una personalità prepotente e esplosiva e quindi... No, è che in realtà ovviamente... Non si riesce mica a fare una roba in italiano con quel tipo di suono lì. A me piace, avevo voglia di fare un pezzo da ballo, diciamo, perché mi divertiva l'idea. E quindi insomma, la scelta sull'inglese è venuta automatica. Devo anche dire che, non lo so, è una cosa che non vorrei fosse malinterpretata, però mi piacerebbe che quelli che votano, che qualcuno di quelli che vota a novembre sentisse il brano. Se qualcuno avesse un dubbio di quello di cui si sta parlando, magari se ce l'avesse anche ascoltando semplicemente la canzone, non ce l'ha più nel momento in cui guarda il video, perché il video ha un protagonista che, guarda caso, assomiglia molto a Donald Trump. Sì, è mio cugino. Cugino Donaldo. È mio cugino, non sono riuscito a tenerlo fermo. No, insomma, sì, gli assomiglia un po', ma insomma, in realtà Donald Trump è un pretesto per raccontare storie di oggi che succedono un po' dappertutto, che succedono in Europa, succedono in Italia, succedono in America, eccetera. E lui ovviamente, colorato, colorito e ingombrante com'è, è una parabola abbastanza chiara di quello che si vede in giro. Però insomma, io sono sinceramente preoccupato da cittadino, da padre. Non vorrei fare il pessimista perché non mi piace, io sono di carattere, sono ottimista, hai capito? Però faccio molta fatica in questo periodo. Cioè, la frase che mi viene da dire è «mala tempora currunt».

consulto quello che mi interessa, ringrazio per l'accesso che mi viene dato, do poca confidenza e chiedo poca confidenza. Non ho una serie di barriere oltre le quali gradisco non si vada. Detto questo, non posso non pensare che il nostro futuro fra 20 o 30 anni è che i sensori ce li impianteranno in testa, le lenti aggiuntive per vedere la realtà saranno, basterà schiacciare qui per averle. Cioè, credo che il nostro trasformarci in esseri più complessi sia molto più vicino di quello che crediamo. Quindi, spero che almeno quello faccia qualcosa per combattere la noia. Chiedendoti se a questo punto fare musica è ancora più necessario di prima. Ma sai, io la mia risposta è facile perché è l'unico mestiere che di fatto so fare nella realtà, a parte tutti questi pronunciamenti, eccetera, io sarebbe do minore, la minore, sempre lì vado a finire, hai capito? Quindi io spero che sia così, perché se no non saprei da che, come inventarmi. Però sì, di sicuro, verrebbe semplicemente fare in modo che la musica torni ad essere il fiume sul quale galleggiano i sogni delle generazioni. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena. Insieme a noi c'era Mauro Pagani. Un saluto da Marta Cagnola.